tesoro che sei quando mi guardi, quando dici che mi chiami dopo e non mi chiami mai. Che tesoro che sei quando fai tardi, dici scusa sono in mezzo al traffico, mi aspetterai. E se il nostro poi non fosse amore, giuro io non ti lascerei, anche se pensi che di te non me ne importa niente. Anche se non fossi un angelo io non ti cambierei, perché sei bella, bella, bella, bella come sei. Sei bella come ti vorrei. Che tesoro che sei quando ti svegli, quando esci dalla doccia corri e non ti asciughi mai. Ti rivesti nel buio e leghi i tuoi capelli. Un biglietto per me, sono pazza di te, non lo sai. E se il nostro poi non fosse amore, giuro, io non ti lascerei. Se pensassi che di me non te ne importa niente. Anche se non fossi un angelo io non ti cambierei, perché sei bella, bella, bella, bella come sei. Sei bella come ti mi guardi, quando penso con gli stessi occhi tu mi lascerai. Che paura che hai, non mi sorprendi, perché stare con me non è bere un caffè e tu lo sai. E se il nostro poi non fosse amore, giuro, io non ti lascerei. Se pensassi che di me non te ne importa niente. Anche se non fossi un angelo, io non ti cambierei. Perché sei bella, bella, bella, bella come sei. Sei bella come ti vorrei.